Allora, vorrei parlare del libro di Corrado Augias e Remo Cacitti, Inchiesta sul cristianesimo. Questo libro è, secondo me, di grande importanza perché ci dà un'idea del cristianesimo, che è stato, diciamo, uno dei fondamenti della nostra cultura, forse uno dei più importanti, in un modo molto articolato, che normalmente non possediamo un modo così preciso e articolato, perché la nostra formazione viene dalla scuola e la scuola ci ha dato un insegnamento religioso confessionale, cioè delle gerarchie ecclesiastiche definiscono quali sono i programmi e stanno attenti che gli insegnanti di religione si attengano a quelli. Il messaggio che ci viene dato è di un quadro teorico ortodosso che è sempre stato così e che nel tempo invece si sono verificate delle eresie, cioè delle scelte diverse. Eresie vuol dire scelta, delle scelte diverse. Sono state tante, una delle più importanti che tutti conoscono è quella protestante di Martin Lutero. Ora, questo quadro che ci viene fornito dalla visione confessionale, da un punto di vista laico, è un quadro completamente distorto. E dirò perché. Allora, con l'illuminismo, noi sappiamo che è iniziato il periodo della storiografia storica, della storiografia, scusa, scientifica. Cosa vuol dire storiografia scientifica? Di applicare il metodo della scienza alla storia, sui documenti, per la possibile verifica dei documenti, insomma, si è creato un metodo scientifico applicabile alla storia. Nell'Ottocento, specialmente in lingua tedesca, si è applicato questo metodo alla religione, in particolare al cristianesimo, ma proprio in quel periodo Pio X, nell'ambito del cattolicesimo, ha bandito questo metodo dall'analisi storica, cioè ha impedito che si potesse fare un'indagine storica sulle origini del cristianesimo. In questo modo, definendo, stancendo che il Cristo, così come ce lo presenta la Chiesa, è Cristo storico, è il Cristo così come è vissuto, Gesù storico, coincidenza tra Gesù storico, Gesù dei Vangeli e Gesù della fede, Gesù in base alla confessione cattolica. Bene, questa visione è molto restrittiva e col Concilio Vaticano II, che è stata una vera e propria rivoluzione, un tornado nella Chiesa cattolica, voluto da Papa Giovanni XXIII, si sono sanciti dei nuovi principi, in primo luogo anche la rinascita degli studi scientifici sull'origine del cristianesimo. Sempre nel documento del Concilio Vaticano II, c'è un'altra parte importantissima che riconosce che la religione cristiana non è l'unica religione valida, che ci sono altri modi per arrivare a Dio, come l'induismo e il buddismo, che sono modi differenti arrivare al divino, al cosmo. Questa conversazione che facciamo oggi è di grande attualità perché oggi siamo sotto il papato di Ratzinger. Siamo sotto il papato di Ratzinger. E Ratzinger è stato il prefetto della Congregazione della Fede. E da quando c'è Ratzinger come prefetto della c'è stato come prefetto della Congregazione della Fede, tutti gli studi che erano stati avviati in conseguenza del Concilio Vaticano II, che poi non facevano altro che riprendere gli studi già fatti fuori dalla sede, diciamo, ufficiale, e furono fermati. E oggi il Papa ha scritto un libro su Gesù, che è un libro mistico, che ha la sua ovviamente legittimità, è un libro di un fedele che vuole confermare le idee della Chiesa, accorpare i fedeli intorno a un unico modo di pensare, ma che non ha nessuna base storica. Cioè, anche lì viene ribadita la coincidenza tra il Cristo dei Vangeli, il Cristo storico, il Gesù dei Vangeli, e il Gesù storico e il Gesù della fede confessionale cattolica. Fermo un attimo.